Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Prologo alla serata di gala dell'Olimpico con Italia-Uruguay. È stato il ricevimento di stamana degli azzurri, la visita al Quirinale al presidente Napolitano, un incontro organizzato da tempo che negli ultimi giorni era tornato in forse per le note vicende istituzionali e che si è invece svolto regolarmente in un'atmosfera partecipe che è andata anche significativamente al di là del protocollo. Sentite l'emozione palpabile una parte del discorso del capitano Buffon al capo dello Stato. Per noi è un grande onore, sta a significare però che anche al cospetto della storia siamo una nazione giovane, siamo una popolazione ancora fresca e probabilmente per certi aspetti inesperta, e questa inesperienza ogni tanto ci fa cadere, diciamo così. Proprio per questo, questa popolazione credo che mai come in questo momento abbia bisogno di un appoggio importante, l'appoggio di una classe politica coesa, di una classe politica colta, di una classe politica responsabile e di uno Stato presente, uno Stato che penso da lei in questo caso è rappresentato, e proprio nella sua figura pulita, trasparente e capace, penso che tutta la popolazione e anche noi ci aspettiamo quelle risposte per poter ripartire dopo questi momenti di grandissima difficoltà. Sono molto emozionato e si vede, perché sono pensieri che mi toccavano e li volevo esprimere al di là di tutte le litanie che si possono fare in questi casi. Detto questo, noi cercheremo di fare il nostro sul campo e di onorare il nome dell'Italia sempre e comunque. Grazie. Però la replica ovviamente non c'è stata come prevista dal protocollo, e probabilmente non escludo che lo stesso presidente fosse persino sorpreso da questa partecipazione emotiva di Buffon, che è stato quello che ha preso la parola, ma che insomma ha interpretato anche dalle facce, dagli sguardi, dagli atteggiamenti, ha interpretato, mi pare, lo stato d'animo collettivo, come già si era letto d'altra parte e sentito negli scorsi giorni. Sentiamo il capo dello Stato. Buffon, che oggi ha fatto un magnifico gol col suo discorso, perché insomma anche da portiere qualche gol si può fare, e ha dato veramente dei riferimenti credo molto saggi, molto seri, con i suoi accenni alla classe politica. Ora, per la nazionale di calcio, l'Italia è sempre stata il solo riferimento, il solo motore, la sola ispirazione, e avete fatto in tantissime occasioni onore al nostro paese. Sono sicuro che continuerete a farlo, a cominciare da stasera, in tutte le prove che vi attendono. Io vi ringrazio perché ero stato appena eletto Presidente della Repubblica e che mi avete fatto vincere i mondiali. Mi dispiace che l'anno prossimo, dato che il 2013 scade il mio mandato, non ci siano gli altri mondiali per chiudere anche con una vittoria della nazionale, ma vi seguirò anche dopo, fin quando avrò forza, sicuro che saprete sempre tenere alta questa bandiera che ora consegno al vostro capitano. Però, Ari però. Poi c'è stata un'emozione speciale per Mario Balotelli nel salone dei corazzieri del Quirinale, perché alla chiusura di questo incontro, leggo dall'ANSA, a chiusura dell'incontro del Presidente della Repubblica Napolitano con i nuovi cittadini italiani, ai quali ha partecipato anche la nazionale, Balotelli non ha voluto commentare ufficialmente la giornata, ma ha raccontato però le sue sensazioni alle parole del Capo dello Stato, che ha invitato a rivedere la normativa sulle concessioni della cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia, sottolineando come i figli di immigrati che ancora non hanno la cittadinanza soffrono questa situazione perché si sentono in realtà italiani a tutti gli effetti. Quelle parole mi hanno toccato, ha detto Balotelli, che come ricorderete è nato a Palermo da genitori ghanesi, perché è la mia storia ed è assolutamente così. Il calcio dunque, la vigilia di Italia-Uruguay, dunque una inedita coppia d'attacco che sarà un tema ricorrente anche delle prossime amichevoli da qui a giugno, in attesa della guarigione del recupero di Rossi e di Cassano. La coppia di stasera è Balotelli-Osvaldo. Sentiamo Osvaldo neo titolare. Sono molto felice, mi sto godendo questo momento, mi è dato tutto di colpo e sono un po' ancora, non ci credo, però sono, come ho detto prima, sono molto contento. Spero di inserirmi bene negli schemi della squadra, che sta facendo benissimo, si vede che giochiamo a memoria. Io spero, come ho detto prima, di fare bene tutti come gruppo, di raggiungere un buon risultato. Poi personalmente, se dovesse arrivare il gol, bene, ma se no non importa, spero soltanto di fare una grande partita. Mario, vabbè, parla da solo, è un fenomeno. Avrebbe voglia di leggervi i primi messaggi arrivati a commento di questo scambio, no? di dichiarazioni tra il capitano della nazionale e il capo dello Stato. Non so se è il caso di leggere anche l'ultimo, ma forse sì, perché forse dà un'idea compiuta del paese in cui viviamo. Allora, i primi cinque arrivati: bravo Buffon, firmato Amedeo da Milano, e se facessimo Buffon presidente del Consiglio, Giovanni, Torino. Con le sue ultime dichiarazioni, in particolare con questa al capo dello Stato, penso che Buffon si sia riscattato completamente da qualche marachella del passato, Stefano da Udine. Bellissimo messaggio, pieno di sensibilità e di coraggio, sono certo che non l'ha scritto Andrea Agnelli, Guido da Varese. E Buffon piange davanti al vecchio paraculo comunista napolitano, andiamo bene. Questo è firmato Marco da Vicenza. Lascio scegliere a voi quale di questi cinque messaggi testimonia le condizioni in cui hanno ridotto questo paese. Una bella notizia arriva da Firenze, perché sabato, in occasione dell'anticipo Fiorentina-Milan 20:45, i volontari della Croce Rossa aiuteranno il comune di Aulla a raccogliere fondi destinati agli abitanti colpiti dall'alluvione del 25 ottobre scorso. E tra poco cambiamo completamente argomento, perché un altro messaggio di commento: Buffon invoca la Padania libera, sempre per via, appunto, che nel frattempo il paese si è molto evoluto in questi anni. Dicevo, cambieremo completamente argomento, perché? Ma perché a partire da venerdì sera 18 novembre e fino al 21 dicembre, quindi per 33 serate consecutive, accadrà qualcosa di inedito, e cioè 33 serate, per l'appunto, con il calcio in diretta televisiva in prima serata, consecutivamente e ininterrottamente. Allora abbiamo chiesto ad un personaggio speciale di commentare questa overdose di calendario. C'era una volta il pomeriggio domenicale, tutto stava a regolare gli orologi, sulle 14:30 d'inverno, sulle 16 in tarda primavera. Quell'unità di tempo è sparita da anni, come sappiamo, un po' come le mezze stagioni. Travolta da cosa? Ma dalla montagna di quattrini con cui la Pay TV mantiene il calcio, stravolgendolo poi a proprio piacimento. L'ideale per loro cosa sarebbe? Sarebbe una partita a sera. Però adesso togliamo il condizionale, leggiamo questa tabella che Franco Piantanida ha preparato e scopriamo che da venerdì, questo venerdì 18 novembre, sino al 21 dicembre, mercoledì sera, ci sono 33 prime serate di calcio televisivo tra Serie A, B, Champions League, Europa League e persino Coppa Italia a tappare un paio di buchi. La tabella da stamane è sul nostro sito. Vi dico solo così che parte da Livorno-Ascoli venerdì sera e atterrerà il 21 dicembre con il recupero della prima giornata di Serie A intera alle 20:45. Dopodiché cedo la parola a uno degli ultimi sacerdoti del rito domenicale sparito, Fabio Fazio. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, grazie molto. Se ti dico 33 serate... Dica 33. Dica 33. Sì, in questo caso è un sintomo di malattia, secondo me. Ma guarda, sai, tu hai iniziato questa conversazione con C'era una volta, no? Mm-hmm. Che è un incipit che induce immediatamente a pensare alle favole e, se vuoi, anche alla malinconia. Io credo che bisogna partire proprio da qui, nel senso che bisogna avere la freddezza, credo, per ragionare su questi argomenti senza alcuna malinconia, nel senso che io non credo che abbia valore il rimpianto, né era meglio prima quando si giocava la domenica, cioè è banalmente un dato di fatto, cioè, nel senso che quando qualunque prodotto diventa un prodotto di consumo, come dice la parola, si consuma. E quindi alla fine è vero quel che dice, cioè il calcio, la Pay TV finanzia il calcio e finanzia un prodotto che diventa sempre meno

di suo figlio Pier Filippo. Il fiore che in Gran Bretagna in questo periodo ricorda i morti in guerra è un papavero rosso e quindi non c'entra. Ma tanti altri, vabbè, io cerco ovviamente sempre di tralasciare quelli elogiativi, magari ne rinvio anche qualcuno che per fortuna sono molto pochi. Ho dato un campione prima di horror message, però mi sembra che fosse abbastanza eccezionale. A me eccezionale nel senso che faceva eccezione. Loris da Pordenone scrive: a me l'overdose di calcio alla TV scatena sempre una gran voglia di rimettere i pantaloncini e tornare in campo anche dopo un sacco di anni. Questa mi sembra una buona reazione. Nico da Biella scrive: sono innamorato del calcio da quando avevo 5 anni, ma ormai ne ho la nausea e in TV ne guardo sempre meno e lo capisco. Ce n'è uno che dice: dunque, io per Cremonese, Pergo Crema, ho rimandato un attack, scrive Cesare da Cremona. Immagino fosse un attack al cervello, e quindi no, c'è poi sempre tempo, insomma, no? si fa poi tutto insieme una volta. Ho risolto il problema sposando un'appassionata di calcio, scrive Simone da Ravenna. 33 giorni consecutivi di calcio televisivo, ma secondo lei esiste una possibilità di fare ancora un passo indietro, magari cominciando a ridurre il numero di squadre in Serie A? Beh, se riducesse il numero di squadre in Serie A, indubbiamente qualche problemino in più per la saldatura, se non altro, no? Dei 7 giorni su 7 ci potrebbe essere, però io credo che indietro, ha detto bene Fabio prima, indietro non si torna. Non a caso io ho cominciato questo insomma, le prime parole erano volutamente: c'era una volta il calcio, che aveva un'unità di tempo, poi non di luogo, perché si giocava su tutti i campi diversi, però c'è stato un periodo anche in cui sembrava che ci fosse davvero unità di tempo e di luogo, perché il luogo era la radiolina del calcio minuto per minuto, e allora in quel momento alle 14:30, alle 15 o alle 16 c'era unità di tempo e di luogo. Ma sinceramente il film è cambiato, e quindi c'era una volta, secondo me è legittimo, perché è davvero una favola di tempi andati che non possono evidentemente tornare. Serafino da Cagliari, buongiorno. Serafino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo andare un attimo un po' controcorrente. Ok, il frazionamento del calcio è diventato eccessivamente esasperato, però la TV, a chi ama il calcio, ha dato una grande possibilità, che è quella di seguire la propria squadra, dico praticamente sempre. Per chi, nel caso di chi abita in Sardegna come me, diventa un po' difficile poter andare a vedere altre squadre che non siano solamente il Cagliari, squadra a cui ovviamente siamo attaccati per via della nostra insularità. Però la TV ci ha dato la possibilità di vedere il calcio in tutto il mondo, forse esagerando nel frazionamento delle giornate in cui la guardiamo, però onestamente prima di tutto quello che è il calcio di oggi noi non sapevamo nulla. È vero che dovevamo ascoltare la partita la domenica in un religioso silenzio alla radio, un po' di domenica sportiva in tarda serata e tutto finiva lì. Mm-hmm. Quindi diciamo che probabilmente il bilanciamento della quantità di calcio da dare in TV in termini di frazionamento può essere fatto meglio, ma il fatto stesso che possiamo seguire le partite è stato un grande vantaggio. Oggi parliamo di Real Madrid, di Barcellona, di Manchester, ma dal punto di vista del divertimento, dello spettacolo, dell'informazione, della completezza di panorama, ma su questo non c'è alcun dubbio. È il concetto di overdose di cui si sta discutendo, no? Il concetto di assuefazione. Tra un po' dobbiamo arrivare al metadone da calcio, credo, no? in queste situazioni, ma soprattutto io credo si rischi di disamorare anche l'affezionato, nel senso che ormai io penso come Fazio in questo, cioè ormai siamo, cioè uno, siamo quasi alla patologia, ecco, questo è questa è la sensazione, non più all'appassionato, ma nemmeno al caso clinico ancora, questo no, ma quasi, però quasi, perché il condizionamento di questa offerta è tale che insomma, che davvero insomma, ci ha cambiato anche la vita, in poche parole, no? Ha cambiato la vita familiare, ha cambiato la vita di rapporti, ha cambiato... Poi vedo qualche messaggio, c'è un ascoltatore che scrive orgogliosamente, dice: per nessuna partita al mondo rinuncio venerdì sera alla partita a carte con gli amici. Ma meno male, ma speriamo bene, speriamo ce ne siano ancora, però temo che invece i danni da overdose si facciano poco alla volta sempre più sensibili. Marco Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Peccato che non c'è più Fabio Fazio, perché avrei voluto salutarlo, perché io ai tempi sono stato un inviato di quelli che il calcio per un breve periodo. Sì. E la differenza la fa proprio anche l'organizzazione di quelli che il calcio. Se lei nota, ai tempi di Fabio Fazio cercavano dei personaggi spontanei, naturali. Io per esempio all'epoca facevo lo speaker dello Stadio delle Alpi di Torino, sì. E mi trovarono per quel motivo lì. Oggi sono personaggi che sono comici, sono personaggi già affermati del mondo televisivo, che fanno una trasmissione che è fatta un po' di plastica rispetto a quella che era di Fabio Fazio. E la differenza nel calcio di oggi, appunto videogames, come giustamente dice Fabio, rispetto ad allora è un po' questa. Successivamente io mi sono anche occupato un po' di marketing calcistico, e mi ricordo che a quell'epoca, parliamo degli anni 94-95 eccetera, gli addetti marketing delle società, e segnatamente del Parmalat, con tutto quello che è successo dopo, e della Juventus, con tutto quello che è successo dopo, ai personaggi che c'erano allora, proiettavano delle linee di crescita infinite dal sì. punto di vista degli introiti delle società. Trascurando il fatto che non si tratta solo di un business di largo consumo, ma di un business, diremo, sentimentale, ecco. La forza del calcio è un po' la semplicità, secondo me, no? Sia dal punto di vista del gioco, si può giocare con la palla di stracci e quattro no, bastoni, questo sì, questo sì, Marco, però cioè qui siamo già su un altro, oddio, possiamo andare avanti per ore, anzi per giorni, anzi per mesi con questi discorsi, soprattutto se sono fatti in maniera così raffinata come sta facendo lei, o piacevole. Io però restavo alla e mi pareva che anche Fabio avesse colto questo aspetto in particolare, cioè che è la svalutazione dell'offerta alla fine, nel senso che insomma, si è visto l'altro anno con i Clásicos, no? Io credo che oggi al mondo meglio di Barcellona Real da un punto di vista e qualitativo e emotivo e anche di contorno e di possibili sviluppi, ma anche deragliamenti, nel senso di eccessi, non ci sia. Credo non ci sia niente di meglio al mondo oggi. L'altro anno quante ne hanno giocate? 4 o 5 in 20 giorni? Mi sembra 4, diciamo, che c'era un andata e ritorno di Coppa Campioni, la finale secca della Coppa di Spagna e il ritorno di campionato a Madrid. Hanno giocato in 18-19 giorni, non ricordo, 4 Barcellona Real. Alla quarta non se ne poteva più, cioè non ce la fai più di vedere le stesse facce delle cose. Allora, e quello è il top mondiale, no? Se tu tutte le sere proponi calcio alla TV, io non so, io ricordo negli anni 70, quando ci fu il grande boom dello sci, per esempio, che noi italiani vivemmo in maniera particolare anche per via della Valanga Azzurra, di Töni, di Gross, di tutta questa gente, poi arrivò. Ma quando arrivò Tomba, tutto però era già inflazionato. Allora c'erano, ai tempi di Töni, c'erano 6-7 gare all'anno che tu ti piazzavi alla mattina, del sabato, quasi sempre, davanti al televisore a vedere queste libere, questi slalom, queste gare, perché erano un evento epocale. E dopo cosa hanno fatto? Hanno cominciato a farcire il calendario, che ogni 2x3 c'era una gara di Coppa del Mondo. Risultato: fine della Coppa del Mondo, strafine della Coppa del Mondo sul piano dell'interesse e del coinvolgimento collettivo. Il calcio ha altre radici, ha un'altra popolarità. Però un minimo di rischio lo si corre anche col pallone, secondo me, di questo passo. Aldo ha chiamato dalla provincia d'Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo dire una cosa. È vero che di calcio sono inflazionati tutti i programmi. Però una cosa, e quindi i commentatori veri sono veramente pochi. Però secondo me manca un commentatore serio, cioè io rimpiango le radiocronache con enfasi, tutto quello che vuole, di un Carosio, di un Martellini, di un Pizzo. Qui quelle persone lì non ci sono più. Vabbè, questo è un altro aspetto ancora, di tempi completamente diversi. Qui siamo tornati al c'era una volta, però non il discorso di oggi è leggermente diverso. Mi lasci dire, grazie comunque, cioè leggere questo anagramma firmato Alessandro Cuppini, che è un ascoltatore fedele. La settimana scorsa ha sentito che Balotelli è l'anagramma di Altobelli, allora si è esercitato a sua volta e ha tirato fuori un Mario Balotelli, amalo il bel tiro. Sinceramente mi sembra già di quelli carini. Grazie. Faccio notare che alle 14.46 e 39 secondi, adesso 41, 42, perché passano, ancora non è stata pronunciata la parola TAR. Speriamo di fare percorso netto. Intanto Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 novembre 1997. Al San Paolo di Napoli, davanti a oltre 70.000 spettatori, l'Italia di Cesare Maldini stacca il biglietto per Francia 98, battendo 1-0 la Russia nel ritorno dello spareggio. Il gol che vale i mondiali lo segna il centravanti della Lazio Pierluigi Casiraghi, con una conclusione dal limite dell'area su assist di Albertini. Per Casiraghi si tratta del 13° e ultimo gol in nazionale. Non sarà infatti tra i 22 che partiranno per la Francia. Poco meno di un anno dopo la rete di Napoli, quando avrà appena iniziato la sua avventura nel Chelsea, un bruttissimo infortunio lo costringerà a interrompere la carriera a soli 29 anni. Nicola nel senso di Filippone, mi ha segnalato anche un Germania-Italia 2-2 del 15 novembre, domenica 15 novembre del 1936, con gol di Colaussi all'inizio, poi due gol tedeschi e poi Giovanni Ferrari. Una partita che volle ad ogni costo la propaganda nazista per sconfiggere i campioni del mondo. A casa loro si giocava a Berlino, missione fallita, ripeto, 2-2, con l'esordio del futuro portiere campione del mondo Olivieri, che si sarebbe poi laureato campione per l'appunto ai mondiali francesi due anni più tardi. Qualche altro messaggio con lo spezzatino di oggi: spesso mi perdo le partite, scrive Carlo, seguire il calendario è quasi diventato un mestiere. Sono d'accordissimo, si perde un sacco di tempo, ma veramente un sacco di tempo, per star dietro a anticipi, posticipi, a spostamenti, poi a cambi. Torno sempre a Capello, no? per fare il caso limite, perché Capello non è uno spettatore qualunque, di mestiere attualmente fa il CT dell'Inghilterra. Stefano da Milano esagera un po' come immagine, secondo me, perché dice che tutto sto calcio è un po' come andare a letto con una bellissima donna: se capita una volta a settimana è una grande sorpresa, se capita tre volte al giorno per sei mesi è un incubo. Beh, vediamo Stefano, no. Adesso magari il... Tre volte al dì per sei mesi, non, se non proprio un incubo, potrebbe già essere impegnativo, ma una volta ogni tanto, insomma, se è così bella, poi ne possiamo parlare, no? Beati i tempi in cui esisteva il mercoledì di Coppa, scrive Davide, era l'unico momento in cui seguivi e aspettavi con eccitazione, rieccola, e attesa la tua squadra del cuore. L'importante in fatto di televisioni e di offerte di calcio è che cali l'audience del Grande Fratello, scrive Andrea da Padova, perché no? E l'unico calcio che guardo, o meglio ascolto, è quello del vostro programma. Questo l'ha scritto Luca da Sondrio. Vabbè, Luca, orejas y ovaciones, direbbero in Spagna, in linguaggio da corrida che oggi, per esempio, in Catalogna non si può più usare perché l'hanno abolita. Francesco da Latina, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi dato l'opportunità di intervenire. Un paio di domande, di considerazione. Prima di tutto, la super offerta di calcio che stiamo vivendo probabilmente verrà regolata dalle normali leggi del mercato, quindi se l'offerta è troppa, piano piano la domanda cala, sempre più bassi, calerà e certo. Sarà appunto un'inflazione, quindi si regolamenterà da sé. Io ad esempio sono un tifoso juventino, ma non sto più o meno rispetto al passato davanti alla televisione, non attendo più o meno, non mi sento disorientato né tantomeno troppo preso da questi calendari così frequenti. E la seconda considerazione, più che altro una domanda, è, visto che stavamo quasi nel percorso netto, il TAR che possibilità per lei, secondo lei, di accogliere le richieste, le istanze della Juventus? Non ne ho la minima idea, le giro in compenso l'ultimo messaggio arrivato che è firmato Max da Mestre e che dall'acronimo TAR, no, tutto maiuscolo, ricava TAR uguale tutto assai ridicolo, applicato ovviamente al calcio e all'uso che se ne può fare nel calcio, ne fa in questo caso la Juventus e non certamente al tribunale amministrativo. Giovanni dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno Gigi, mi permetto di essere qualche volta in disaccordo con quello che con le sue idee. Magari si può ancora. Sì, vabbè, comunque e, a parte al momento. No, c'è comunque una grande passione per Nereo Rocco, quindi questo già questo, abbastanza. Questo riduce le distanze, indubbiamente. Esatto. No, io le dico, io ben vengano le molte partite in televisione, e le, per una questione democratica, se vogliamo. Io vivo in campagna, in provincia di Venezia, e sono tifoso milanista. E una volta non potevo vedermi in Milan, perché non dovevo ascoltarmelo per radio, magari me lo raccontava anche qualcuno che non lo descriveva bene. Adesso posso vedermi anche il Milan, ma anche le altre squadre. E è chiaro che, come tutte le cose, però gli eccessi non vanno sempre questo condannati. Era soltanto sì. Questo il discorso sì. Che si faceva, non sì. Era. No, io mi ricollego anche al discorso che ha fatto il precedente ascoltatore. Effettivamente poi sarà il mercato a tagliare i rami secchi. Diamo la possibilità a chi non può andare allo stadio tutte le domeniche, come farei io se abitassi a Milano, e di vedersi la propria squadra del cuore. Questo è diverso, Giovanni, cioè con la Pay TV, se il calendario non fosse così frazionato, lei avrebbe non solo il diritto, ma la possibilità di vedersi tutte le partite del Milan che vuole, con un po' più di unità di tempo e di nuovo di luogo, in questo caso, perché non sarebbe più la radio del calcio minuto per minuto, ma è diventata la televisione, la televisione a pagamento. Benissimo, era questo. Su questo non c'è discussione che abbiamo fatto dei passi avanti. Sul fatto di spalmare tutto ciò addirittura per 33 serate consecutive, è lì il motivo, non dico del contendere, ma del riflettere, se non altro, perché mi sembrava che la valesse la pena. C'è un ascoltatore che evidentemente di professione fa il detective, che scrive: Sacchi è appena uscito dalla sede del Milan in via Turati. Beh, insomma, può essere interessante. Devo anche dire che non è la prima volta che succede e non sarà nemmeno l'ultima, anche da quando il Milan non l'allena più, per via di rapporti e contatti giustamente assai frequenti. Fabio ha chiamato la Lecce, buongiorno. Salve Garanzini, buongiorno. Dica. Io le dico subito, esco dal lavoro alle 2, sono nel mio camper a pranciare e ascolto la sua trasmissione perché la trovo intelligente, con una bella dialettica. Nessuno regala niente. Ho fatto un calcolo, le dico subito, in 100 anni di lavoro io non guadagnerei quanto uno di quei personaggi che vedete, guardate correre da una parte all'altra del campo. Del campo. Mm-hmm. Guadagna in una sola stagione. La gente si rendesse conto di questo, soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo, in cui l'altro giorno accompagno la mia compagna ad acquistare un jeans e ho visto la mia compagna pagare 120 euro per un jeans, che è una cosa abbastanza che pesa poi a fine mese. La gente perché non si rende conto di questo e fa un atto di devozione verso l'etica umana, sì, verso certo. Il rispetto di se stessi? Sono d'accordo con lei. Io farei una riflessione anche sui jeans che costano meno, sinceramente, perché credo si riesca a trovarne volendo. Però è chiaro che lei sta facendo un discorso molto più serio, che però già un po' è superiore alle mie forze, sicuramente è un po' al di là delle mie possibilità di comprensione, e soprattutto arriva a fine puntata quando il tempo sta scadendo, sicché il tempo che vi rimane è proprio quello soltanto di salutare e ringraziare Franco Piattanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, e di cedere la linea al giornale radio.